solo io palesare intendo gli arcani del mio cor. Lucio, se via tu non partisti, torno qui dai ladini e vengo nunzia da me capace. Carma, che mai sarà se di vitelli a Geminio che pur sente per la vergine illustre lo stradamo. Geminio, il mio germano, stringe la mano di sposa, consolati non cerca ed è romano. Non mi tradir fortuna in si gran punto, o provo sempre amor. Al fine un cieco dal tuo fratello aperse della ragione i dubbi. Lucio, che obrar de Gio sia di Geminio sposa Vitellia, e al mio rivale a Roma, che in questo dì è tua patria, dona servigli al nodo, e il merito dell'amor ceder conviene. Oh, è crudo fato, abbraccerò il mio bene. Servilia, e rode tebra, rievi a Geminio, e reca dell'Ibeneo la fede, e fra i romani consoli si è messo non è un latine. Dirai che queste braccia di pacifica fronda e di cinta da chioma avrà il cuor del senato, anzi di Roma. Grande